10? C'è qualcuno su 10? Hola. Hola. Attento 10. Attento 10, c'è qualcuno su 10? Hola. Attenzione 10. Ciao Claudio, ben sentito. C'è qualche durato tra te? Vabbè, come va Claudio? Ah, oh, 9 più 10, sei radio 5, ti ascolto benissimo. Ah, la parte mia sta andando alla grande, se vuoi farla prova sono qua, non c'è problema. Ma ieri poi ti abbiamo detto, ci spostiamo, eravamo in FM, ti ricordi su 19, poi ho detto, ritorniamo su 10, boh, sei scomparso ieri notte. Ah, sono ritornato poi su 19 in FM di nuovo dicendo, Claudio ci sei, non hai risposto. Allora poi ho richiamato su 10, Claudio, a diverse volte ho detto, boh, poi è successo qualcosa, ho detto, boh, non riesco a capire. Ma tante volte mi sono andato. Oh, ieri la cosa ridicola che mi ha fatto sorridere, che stavamo parlando tra di noi in FM. E poi c'era questo qua che diceva sempre breco, breco, e noi, QSO locale, spagnolo, QSO locale. Alla fine quello si era abbiato, ha detto, mica sono italiano, e tu vai e lascia prendere, io pensavo stesse scherzando. Invece era di Vicenza quel tipo. A poi io ieri, quando c'era troppa confusione, mi sono spostato più in basso, 26,7, mi sembra, 26,7, più in giù dei canali bassi, dai. E ho fatto delle belle comunicazioni con questi tedeschi, qualcuno si arrangiava un po' in italiano, abbiamo parlato un po' in inglese, ma diversi, mi ha fatto diversi collegamenti, perché nei canali normali, nei canali della Luna 40 era un macello totale, non parliamo poi sui canali 45 o cosa del genere, non si poteva stare. Allora sono sceso un po' più in giù e c'era meno confusione, c'erano questi tedeschi in gamma, uno era venuto in Sardegna, quando ha sentito stare a cavolo, Sardegna, che era Beautiful Sardegna, no, è abbastanza simile al nostro, già Tarragni, certo non è che le devi parlare bene, però a dire qualche fesseria già si riesce, dai, compagno, amico, eccetera eccetera, e tutti anche familiari, sono molte famiglie, molte parole simili all'italiano. L'inglese così qualche parola riesco a arrangiarmi, a farmi capire, dai, non è che lo so parlare bene, ma qualche parolina riesco a farla. Riccardino da ieri dopo pranzo è andato all'argentiera e ci ha portato i baracchini e tutto, per cui credo che ritorni domani notte, domani sera. Sì, vabbè, dai, ieri e oggi, ma poi ci si scavalcavi anche tra di noi qua, perché ieri poi, oggi c'era, come si chiama, Fabio, ieri lo stesso, Fabio a me arriva forte, ma qualcuno arrivava più basso, per cui qualcuno non lo sentiva, poi c'era Michele stasera, o stamattina, forse stamattina Michele, adesso mentre se stamattina o ieri notte, non mi ricordo, e Michele a me arriva bomboletta, ma qualcuno non lo sentiva per niente, perché lui esce con un antennino dentro casa, ma io sinceramente questi che mettono le portanti, io posso capire un attimino, ti scappa il mic, lo fai, ma cacchio a farlo con scopo, io dico che cosa ne ha uno, se sei antipatico uno non ci parli e basta, quando c'è lui non entri, ma questo fatto di fare dispetti come i bambini dell'asilo, sinceramente io rimango stupito, non so, io sinceramente posso dire soltanto ignoranza, non posso dire altro, perché se dico che uno è psicopatico magari è troppo grave l'offesa, ma è ignoranza, perché io la vedo ignorante, è come quelli che quando ti portano la macchina in officina graffiate col chiodo, dico ma che cacchio ne hai, se uno li vuoi male lo affronti e glielo dici in faccia, vai sono qua io. Sei saturo però, va a parlare, no sei saturo di radio, il segnale è forte, 9.15 quasi 9.20. Un po' meglio, però sei sempre un po' strozzato di radio. No, vai bene, adesso va bene. Fate un'aria come si è messo. Sì, è discreto, dai, non dico che sia un apparecchio professionale, ma già va più che bene per fare accordare. Certo, se deve dare potenze oltre i 500 watt lascia perdere. Guarda, domani mi diverto col computer, non ho fatto niente, oggi ero fuori, sono uscito stasera e non ho fatto niente. Ho visto un Alicraft del tuo babbo, c'è. Ciao Miami, Marco, ciao Gianni, ho visto dal Portobello c'è sempre quell'Alicraft, il ricevitore, 110 volt, sicuramente non funziona perché si vede che mi hanno messo, 50 euro lo stanno vendendo. No, è più recente del tuo, aspetta, ti dico il modello, poi cerco anche su internet, scusa un attimo, ti do il modello. S120 il modello. C'erano delle lucette di coso, di accensione, diciamo una era buttata giù, non accendeva neanche, l'ho rimessa, c'era un filo staccato, e poi non lo so, bisogna vederlo bene quello lì, magari lo faccio vedere a qualcuno. Su internet, lo schermo elettrico ce l'hai di quello? Di 3757. Anche se sono non funzionati, sono sempre apparecchi belli. Che modello era? Thank you. vabbè, il campo mi dà somiglia a parare. Dimmi una cosa, cosa ci sono rimasti dei microfoni della linea Kevin? Dove sta una diecina? Cosa c'ha il B1 che non l'ho mai visto? Riccardino. No, me lo ricordo, cioè non me lo ricordo, me l'ha accennato, però mi deve mandare una foto, però non c'ho modo adesso perché non è neanche raggiungibile, se no te l'avrei mandato. Probabilmente io ho visto un amico di, come si chiama, che c'ha un po' di roba vintage, però non lo dà neanche se ti spari, c'ha una Static, se vedi quel microfono, quelli grandi, tipo quando cantava Frank Sinatra, dico di quelli grandi argentati enormi. Dimmi una cosa, tu il 757 con cosa lo fai andare, con che microfono? Non me lo ricordo però quando lo usavi, sinceramente come usciva, brutta la modulazione in AM. Thank you. da tavolo o da ballo? Non ce l'ho presente. Allora io ho la Dunis che ha tre connessioni dietro, per Icom, Iaesu e Kenwood. Tanto l'attacco sembra 8 puri per tutti e tre. Devo soltanto spostare il connessione di dietro perché c'ha già le prese dietro, tipo le prese di rete per i computer, se lo voglio provare, solo che prima l'ho messo a posto. Ma un giorno me lo fai risentire come va, sono curioso, ma è complicato da piazzare lo IAESU. Lo IAESU per far sentirlo è molto complicato. Ma non ce l'hai in paese o ce l'hai dall'altra parte? Di Claudio, tuo figlio, è tutta dall'altra parte di dove trasmettevi tu, dalla camera da letto tu. L'antenna, io voglio capire una cosa, il cavo d'antenna l'hai spostato dalla camera tua a quello di Coso, l'hai solo allungato a quello di Claudio. Thank you. infatti è meglio così, i cavi meno si muovono è meglio, e soprattutto i connettori. Ok, ma Claudio, vicino a te sempre. No, ho capito, scusa. Ma tu ce l'hai WhatsApp? Lo stavo cercando, non ti trovo io su WhatsApp. Aspetta un attimino, ma una domanda, il 380 ce l'hai sempre quel numero? Claudio, io ho sempre 380 e poi finisce 0582, questo a me non mi risulta, questo quando chiamavo era sempre spento. Mi fa uno squillo e così lo memorizzo. E mandami anche il tuo numero, perché non me lo ritrovo il tuo numero. No, adesso mi manda quello di tuo padre, lo manda lui di WhatsApp, ecco. Adesso c'è qualcuno sotto, avanti. Chi sei? Attenzione, chi è su 10? Ti copio, ma chi sei, Antonello? Ma perché sei così basso, Antonello? Santiago 7, sì, la radio è quasi incomprensibile. Antonello, sei quasi incomprensibile, è proprio una radio assolutamente nasina, proprio strana a me. Santiago 7, di segnale, adesso non c'è propagazione. Vediamo se ti ascoltano anche Muros, Claudio da Muros, lo ascolti Antonello da Ossi. Che non sei in stazione fissa, sei in macchina, Antonello. Guarda, se tu devi accendere un microfono ti ascolto benissimo, però è troppo bassa, è troppo nasina, sembra una voce di Paperino, e la fregatura è quello, perché il segnale è 7, la radio ti avrei dato 5 se fosse stata più chiara, è quasi incomprensibile, ma non perché c'è quel REM, proprio non si capisce col microfono. Prova Maria a metterti un altro microfono se ce l'hai. Ma te, Claudio, da Ossi come ti arrivava Antonello? Bene. No, Antonello Barracuda da Ossi, però è macchina. Adesso sei Santiago 9 Radio 5, ti ascolto bene, ma poco fa con la radio è cambiato il microfono, cosa vai a fare? Sta funzionando bene, ti ascolto bene, no? Ancora. Datemi dammi 2 minuti, arrivo subito, riprendete voi, fa favore. Forse non mi avete sentito, ho chiamato prima. Antonio, dove sei adesso? In che punto sei? Ah no, pensavo ti fossi messo in alto con la macchina. Che macchina c'hai tu? Ah, mi ascoltavi bene, quindi anche in ricezione mi vede. Senti, ma che apparecchio è? Che manca è? Forse ce l'ho io quel baracchino che c'ha una custodia tipo pelle nera, scura. Cioè, poco batterie si può mettere, c'è anche l'antenna, si può usare anche tipo un portatile, un palmare, c'è anche l'antenna. No, c'è ce l'ho anche io, il microfono è tutto rovinato e coso, ma ce l'ho da parte, da qualche parte ce l'ho, vabbè. Non so se sia 23 o 40, forse 40 canali, quanto ne ha? 23 o 40? Che c'ha una rondella grande che ci sono disegnati tutti i numeri intorno, quello lì. No, quello che c'è è un po' rovinato, l'astuccio, era di mio zio, ma stiamo parlando tra 75, quel periodo lì, 75-76, quel baracchino lì, l'astuccio è un po' tutto rovinato, ma molte volte nei mercati li trovo. E poi io c'ho anche, non so se l'avete conosciuto, la Fayette Hawaii, lo conoscete di baracchini operato? Marea di cose, di quei walkie talkie portatili a 3 canali, a 40 canali, c'ho l'Endicom 40S, il 38, ne ho 5-6 di quei baracchini, ce l'ho ancora dentro la busta, neanche aperti, muovi fiammati. Sento un attimino, riprendo subito, è arrivata mia figlia, scusate un attimo. Che il microfono è bellissima radio, come piace a me, pulita, perfetta. E a me come mi ascolti di Santiago? La radio è pulita, non ho problemi. Ok, ti ringrazio. Una domanda interrogativa. Ma tu sei di Ossi o sei di passato? Allora, mia zia, la moglie di mio zio Buonanima, lei è ossese di nascita, dei Rudas, e poi si è sposata qua a Sassari. Ma c'ho tantissimi amici, ma ho tantissimi proprio di coso. Clienti d'officina, l'infermiere, la voce a Gianni Manca, l'infermiere, la moglie, dei Rudas, il coso, quello che c'ha allevamento, diciamo, c'ha una campagna, carciofi, le ruta di Giovanni Maria, lo conosco, quello lì è vero, quel poverino, una brava persona, un grande lavoratore, che vendeva i carciofi vicino alle piscine, a Piazza Le Segne, di lì, il cliente di officina ci conosciamo una vita, un grande lavoratore, sì, sì, un grande lavoratore, infatti dico, ma perché non si vede, poi grande detto, quell'uomo c'ha più di 80 anni, sì, sì, è cosa, lo conosci a Bruno Petretto, Mulinetto, ah, con Bruno siamo molto amici, amici, amici, proprio, l'ho conosciuto da pochi anni, però a me mi tratta in guanti bianchi, io l'ho tratto, quando ci vediamo siamo troppo, è una persona pulita, vera, viene un grande lavoratore, ma hai visto cosa ha creato, scusa gli anni da muro, scusa per il monopolio, cosa ha creato in quel parco, una cosa da paura, sì, mi ha fatto anche il teatro, l'hai visto, ne ha fatto due, guarda cose, un altro lavoratore, mamma mia, io auguro che quell'uomo capi a 200 anni, ma non so come andrà a finire quando non ci sarà più lui, c'è la sorella assunta, lo stesso è una grande persona, la conosci la sorella? Sì, bellissimo, poi grande persona lui, vai Gianni, c'è anche Claudio, eventualmente alterna il microfono anche a lui, ossia che si alterni, cioè che gli venga il sonno a lui con i discorsi nostri. Vecchissimo, ma 50 euro lo stanno dando, è diciamo secondo me degli anni 70. Facciamo riprendere l'Antonello, si è attaccato il giocato, c'è un bel basso adesso Antonello. Ecco qua, dovrei uscire un pochettino meglio adesso. chiedo a lui, conferma, a me sta facendo bene anche prima, sta andando sempre Radio 5, 9 più 10 adesso il segnale. Vediamo Capri come ti ascolta, avanti già. Domanda, il 757 in AM quanto dava? 25 watt mi pare, confermi? Ma una domanda, Giovanni Vittiri, che fine ha fatto? Non l'ho più sentito in frequenza, lo ricordate? A voi come vi arrivava? Un bel forte a Ossi ci arrivava Giovanni. Ma 995, mi ricordo c'era una Mantova, non ricordo se era Turbo, una Mantova 5, sì, ne avevo portato anche alcuna all'epoca, in vita dalla 44, la mia prima radio, l'aveva riparata, aveva cambiato i finali. Abbiamo fatto una vita, sono andato con quella radio, con un litro avevo pagato 125.000 lire, ero una gran fleco mi attenta, e trasmettevo con quella, e una vita, diversi anni da ragazzo, 97. Sì, l'avevo portata a lui, poi ogni tanto si faceva sentire, poi sparito nel nulla. È un cranio maledetto quell'uomo, Thank you. ho sentito, ci siamo visti, è venuto in officina per altri motivi. Prima, mi pare l'anno scorso, se non sbaglio, o due anni fa, era venuto, mi ha dato una mano, è molto competente, una persona molto ma molto competente, soprattutto in impianti acustici, grossover, altoparlanti, eccetera. È un grande tecnico, grande preparazione, ha dato dei trucchi, mi ha insegnato delle cose. E poi doveva metterci mano a un grosso finale che ho io della Revac, professionale, finale parliamo audio, l'ha tutto smontato, poi dovevo ordinare il transito, non ho avuto tempo, perché è una cosa un po' complicata da sistemare, mi ha detto no, ti faccio io, lo conosco bene il coso, me l'ha tutto smontato, ce l'ho dentro la scatola da ordinare i pezzi, siccome vanno dei transito, e lui ci ha contatti anche con ingegneri di fuori, davanti a me, in videoconferenza stava parlando con questa tipa indonesiana che c'ha un grosso laboratorio, un negozio di lì, non mi ricordo se era Giancarlo o dove, in videoconferenza quando mi stava facendo una cosa, stava parlando proprio di questi componenti, se riusciva a spedirli, poi ho lasciato perdere tutto perché non ho avuto tempo, però è una persona veramente competente, c'è tanto da imparare da lui, ho visto delle riparazioni fatte da lui, se entri nel suo sito, cacchio, rimani a bocca aperta. Avete parlato due, Antone? Baracchini, più o meno uno che si arrangia riesce a farlo, ma riparare quegli apparati di quelle caratteristiche, poi è un grande costruttore di amplificatori valvolari, ha fatto dei progetti, ho visto delle cose spettacolari, veramente bravo, grande e competente, e poi soprattutto ha contatti con mezzo mondo, con tutto il mondo, Stati Uniti e altre parti, ho visto dei forum dove proprio gli chiedono delle interviste fatte da lui, delle domande, se entrate nel suo sito rimane a bocca aperta, non mi immaginavo fosse così preparato. Forse si allontanava.